che poi pose calo nella sei docente non ho decade cade poi te cade cos che poi pose calo la signora spinita non lo spara più da c'è caeremos de rodillas. Maldito tu hipocresía.